24. La storia. Ti prego, aiutami, aiutami a chiedere il ritiro delle truppe, aiutami a salvarmi. E a quel punto ho sentito una voce e mi diceva: sono Nicola, non temere, sono Nicola, sono amico di Gabriele e di Pierre, sono venuta a prenderti, adesso sei libera. Mancano 700 metri, poi ci siamo. Lui aveva appena detto così quando ci ha colpito la prima raffica. Ci stanno sparando addosso. Io dicevo: ma chi ci sta sparando addosso? E lui si è buttato sopra di me, evidentemente per proteggermi. E a un certo punto c'era l'autista davanti che continuava a urlare: siamo italiani, siamo dell'ambasciata italiana, così per cercare di farsi sentire, di fermare chi sparava. E Nicola, che prima parlava, mi raccontava un sacco di cose, a quel punto non ha parlato più. Quando dovevamo prendere una certa decisione, eravamo incerti, dubbiosi, angosciati. E io ripetetti a lui quello che tante volte gli avevo detto: Nicola, parla tu, perché tu mi dai fiducia e sicurezza. Era proprio così, dava fiducia e sicurezza. Fiducia e sicurezza, dunque anche queste erano le doti di Nicola Caripari, l'agente del SISMI ucciso a Baghdad il 4 marzo del 2005 dopo aver liberato la giornalista del Manifesto Giuliana Sgrena. D'improvviso, a un posto di blocco, una pattuglia americana ha aperto il fuoco uccidendo Caripari sul colpo. Una morte che ha destato polemiche, sconcerto, che ha commosso l'Italia intera. La morte di un eroe, si è detto, ma di un eroe silenzioso che ha lavorato nell'ombra per liberare Giuliana e tutti gli altri ostaggi italiani rapiti in Iraq. E allora noi oggi vogliamo raccontarvi la storia di questo uomo, di Nicola Caripari, agente segreto. Nicola Caripari è un amico degli Stati Uniti. È un eroe. Lo sento un vero uomo. Il paese è profondamente colpito. Un agente segreto si è sacrificato per salvare la vita dell'ostaggio appena liberato. A ucciderlo non sono stati i terroristi, ma i soldati americani, il fuoco amico dei soldati americani. Dal 20 marzo del 2003, inizio della guerra, a tutto aprile del 2005, ai checkpoint le pattuglie americane hanno ucciso un civile ogni 2 giorni e mezzo e ne hanno ferito almeno uno al giorno. Enzo Bianco, allora presidente del Comitato Parlamentare Controllo Servizi Informazione e Sicurezza, e Pino Buongiorno, giornalista di Panorama, ricostruiscono quel clima. C'era la percezione netta in quei giorni che l'atmosfera a Baghdad era molto pericolosa e che le truppe americane che erano arrivate in quei giorni si erano fatte rapidamente la fama, per una serie di incidenti, di avere il grilletto facile. All'inizio ho pensato moltissimo al complotto, alla vendetta di una parte dell'esercito, del Pentagono, nei confronti di un funzionario di polizia che liberava degli ostaggi e che quindi trattava con delle frange estreme. Pretendere verità e giustizia, è un dovere cui il governo intende continuare ad orientare la sua azione, anche perché abbiamo avuto piena, ribadita, esplicita volontà di collaborazione. Per la prima volta nella loro storia, gli Stati Uniti accettano di istituire una commissione di indagine militare congiunta. A guidare la delegazione italiana, il governo incarica il diplomatico Cesare Ragaglini. Con il generale Campre, che era la delegazione che ci accompagnava, siamo arrivati a Baghdad alcuni giorni dopo l'inizio formale dell'indagine da parte degli americani, era il 13 di marzo, e ovviamente gli americani non erano molto felici, e devo dire che con grande franchezza ce l'hanno detto, e noi con altrettanta franchezza gli abbiamo detto che comunque avremmo dovuto lavorare insieme. Abbiamo fatto questa indagine sulla base di un codice militare americano, che hanno anche delle limitazioni rispetto all'ordinamento nazionale nostro, quale per esempio il fatto che, per esempio, le nostre domande potevano essere poste solo dall'ufficiale americano, che non potevamo proporre la stessa domanda 2 volte se alla domanda era già stato risposto sotto giuramento, che non ci potevano essere, per esempio, dei confronti fra le persone audite. Gli Stati Uniti e l'Italia hanno cooperato strettamente in questa indagine. Ma l'indagine congiunta non porta a una sola verità. Infatti, la delegazione italiana e quella americana stilano 2 rapporti differenti. Sentiamo ancora Ragaglini. nella procedura americana. L'ufficiale era di fatto quasi costretto ad arrivare a una conclusione. E la sua conclusione, a suo avviso, era quella di dire che sostanzialmente i militari americani avevano rispettato le regole di ingaggio. In coscienza noi non potevamo sottoscrivere un rapporto per il quale non c'era nessuna prova di quello che sostenevano gli americani. Per quello che ci riguarda, noi abbiamo un ragionevole dubbio su quello che è l'evento negli ultimi 4-5 secondi, o forse anche meno, perché lì le testimonianze non coincidono. Per gli Stati Uniti la vicenda è chiusa. In Italia invece si apre un procedimento contro ignoti affidato ai sostituti procuratori Ionta, Saviotti e Amelio. La Toyota Corolla dell'incidente arriva a Roma per essere sottoposta a nuovi esami. Nel frattempo gli omissis contenuti nel rapporto della delegazione americana vengono svelati, portando a conoscenza i nomi di tutti i protagonisti di quella tragica notte. Il 22 dicembre 2005 l'indagine della magistratura di Roma si chiude con il rinvio a giudizio per omicidio volontario e tentato omicidio a carico del soldato Mario Lozzano. Così Pino Buongiorno, allora giornalista di Panorama. Se l'esercito americano dovesse consegnare il soldato Lozzano alla magistratura italiana per essere indagato o semplicemente per essere interrogato, l'esercito americano si squaglierebbe, si scioglierebbe, perché è tenuto in piedi oggi grazie a questi volontari, grazie a questa gente che va sotto le armi a combattere in Iraq o in Afghanistan per lo stipendio, per poter avere la cittadinanza americana. È quasi un'avventura e spesso a questa avventura non si è preparati fino in fondo. E ecco perché io dico che il soldato Lozzano va salvato, ma va salvato dai suoi comandanti, non dalla giustizia italiana, non dalla famiglia Calipari, non dall'opinione pubblica italiana, va salvato dai suoi comandanti. Salvare il soldato Lozzano dai suoi superiori, allora vuol dire salvare la verità e la giustizia. Mario Lozzano è il mitragliere americano che ha sparato contro l'auto di Calipari nel dicembre del 2005, è stato rinviato a giudizio per omicidio volontario dalla Procura di Roma. Oggi Mario Lozzano è irreperibile, nascosto e protetto dal governo americano in una località segreta. Ma restano degli interrogativi. Che cosa è successo veramente a quel checkpoint? Come è stato ucciso Nicola Calipari? Perché il mitragliere Lozzano ha aperto il fuoco? E soprattutto, chi era davvero Nicola Calipari? Nicola Calipari nasce a Reggio Calabria il 23 giugno del 1953. Sposato, la moglie Rosa lavora al CESIS, l'ufficio che coordina i servizi segreti. Due figli, Silvia di 20 anni e Filippo di 14. Il nostro lavoro è fatto di informazioni, no? Cioè, fatto di circolazione di notizie, se non c'è quella non... Nel 1979 entra in polizia, assegnato alla squadra mobile di Genova, e nel 1982 arriva alla questura di Cosenza. C'è la presenza di droghe di tutti i generi, ai primi posti senz'altro l'eroina. Nel 1988, minacciato dalla mafia calabrese, è costretto per qualche mese a rifugiarsi in Australia con tutta la famiglia. L'anno successivo approda alla questura di Roma come dirigente della squadra mobile. Dopo l'esperienza in prima linea, guida un settore della criminal pool. Sono altre competenze che si accumulano. Nel 1999 viene trasferito al servizio centrale operativo e poi all'ufficio stranieri del Ministero dell'Interno, settore in cui l'informazione ha un'importanza strategica. Nel 2002 passa ai servizi segreti, dove, in breve, diventa il capo reparto delle operazioni all'estero. Il 15 ottobre del 2001 viene nominato direttore del SISMI il generale di corpo d'armata Niccolò Pollari. Sentiamo ancora Pino Buongiorno ed Enzo Bianco. Con l'arrivo del generale Niccolò Pollari sono approdati al SISMI alcuni funzionari di polizia, dei carabinieri, della Guardia di Finanza, giovani e nello stesso tempo da prima linea. Calipari è arrivato fino a diventare capo della divisione operazioni speciali all'estero. È una funzione molto importante perché da lui dipendono tutti i centri all'estero. Io ho avuto esperienze sempre purtroppo o per fortuna, non lo so, di carattere operativo e sarà un destino, ma continuo a farlo anche in questi due anni che ho trascorso al SISMI. Un uomo razionale, pacato, spiritoso, che non amava lo scontro ma cercava sempre il dialogo. Un uomo, come ha detto la moglie Rosa in un'intervista, il cui motto era impegno, lealtà, fedeltà, responsabilità. Mix 24, la storia. Bentornati a Mix 24. Oggi stiamo raccontando la storia di Nicola Calipari, agente segreto. Un uomo che per mestiere vive nell'ombra, nel mistero. Un uomo che non può confidarsi nemmeno con la moglie, con i figli, con gli amici più cari. Quella di Nicola Calipari, insomma, è la storia di una spia moderna che non ha nulla a che fare con i miti del cinema e dei romanzi. Un agente segreto è inviata in missione in una delle zone più calde del mondo, l'Iraq. Nella battaglia dell'Iraq, gli Stati Uniti e i nostri alleati hanno prevalso. E ora la nostra coalizione si deve impegnare a ricostruire e rendere sicuro quel paese. Grazie, signor Presidente. Il Parlamento italiano approva una missione di pace e il 13 giugno il primo contingente di 150 uomini raggiunge l'Iraq. La guerra è finita, ma il paese è devastato dalle operazioni della guerriglia organizzata contro le forze alleate. Mercoledì 12 novembre, un attentato suicida contro la base dei carabinieri a Nasiriya provoca una strage. 19 morti e più di 80 feriti. Gianni Perrelli è l'inviato dell'Espresso. Meno un mese prima della strage c'erano delle ricorrenti segnalazioni su potenziali pericoli. Non è arrivata la soffiata giusta per cui niente, il contingente, quella palazzina particolare, è risultata sguarnita in quel momento. Il dolore nel paese ha l'effetto di un'altra bomba. Ma accanto al dolore delle famiglie, al cordoglio di un paese intero, la strage di Nasiriya rinnova lo scontro politico tra maggioranza e opposizione. E se parte delle forze armate denuncia di essere stata in qualche modo abbandonata a se stessa, i servizi segreti dichiarano: noi avevamo dato l'allarme per il rischio attentati. Intanto però, al di là delle polemiche interne, in Iraq si continua a combattere e a morire. È caduto il regime di Saddam, arrestato il dittatore iracheno, le truppe alleate devono fare i conti con la guerriglia interna. Dagli Stati Uniti arrivano nuove truppe di rinforzo. Da più di 130 anni a New York il 17 marzo si festeggia San Patrizio, patrono degli immigranti irlandesi. Ad aprire la sfilata il 69esimo reggimento della Guardia Nazionale dello Stato di New York. Il 69esimo è chiamato anche reggimento irlandese ed è pronto per il suo impegno in Iraq. La cattura di Saddam alla fine del 2003 non ha fermato la violenza. L'Iraq è nel caos e le forze armate non sono sufficienti. I servizi di intelligence devono affrontare nuove sfide. Per il manifesto c'è l'inviata Giuliana Sgrena, per l'Espresso Gianni Perrelli. Io non penso che sia stata una buona soluzione quella di abbattere Saddam con una guerra, perché ha creato un vuoto di potere, ha creato il caos, ha creato una situazione insostenibile da tutti i punti di vista. Gli agenti del SISMI vivevano a quell'epoca nell'ambasciata, nei locali dell'ambasciata italiana. Erano una ventina di persone e c'era uno che si muoveva con particolare dinamismo, che veniva chiamato l'arabo perché più degli altri assomigliava a un arabo, poi parlava anche un po' l'arabo. Un lavoro di difficile mimetizzazione. 20 uomini a Baghdad coordinati dai frequenti viaggi di Nicola Calipari. Sentiamo come lo descrivono Francesco Tuccillo, membro del governo provvisorio in Iraq, e Pino Buongiorno, giornalista di Panorama. Nicola Calipari di solito usava in questi territori andare in giro, diciamo, in camicia e con i ragazzi, diciamo, come li chiamava lui, in maniera molto amichevole. Sembrava di vedere un gruppo di amici. Diciamo che è una sorta di James Bond senza avere le caratteristiche, il martini on the rocks o le belle donne che aveva James Bond nel film. E quindi è un agente segreto vero, sotto copertura, con nomi che non sono i suoi, con passaporti che non è il suo. E il lavoro di Calipari e dei suoi uomini dà i suoi primi risultati. A Roma arrivano informative molto precise. Così Enzo Bianco. Il SISMI aveva correttamente informato il governo italiano e anche il comitato parlamentare, prima che iniziassero i rapimenti, che ci sarebbe stato in Iraq un rischio di rapimenti. Il 13 aprile vengono rapite 4 guardie del corpo italiane sulla strada che da Baghdad porta ad Amman. Il giorno dopo, Al Jazeera dà l'annuncio dell'uccisione di Fabrizio Quattrocchi. Calipari aveva stabilito fin dai primi rapimenti un certo raccordo con gli ambienti religiosi sunniti iracheni e in particolare, da quello che si sa, dialogava con la famiglia Kubaisi. L'esponente principale della famiglia è Mohammed al-Kubaisi, membro dell'Assemblea degli Ulema, massima autorità religiosa sunnita. Così Maurizio Scelli, commissario straordinario della Croce Rossa italiana dal 2003 al 2005, e il giornalista Pino Buongiorno ricostruiscono quella trattativa. Gli Ulema sono riusciti ad agganciare il gruppo che teneva sequestrati gli italiani e a convincerli, a fronte di tutto quello che avevamo fatto, a rilasciarli alla Croce Rossa italiana. Il ruolo della Croce Rossa è stato quello di appoggio alle operazioni del SISMI. Di volta in volta, quando non si voleva far apparire gli agenti del SISMI come protagonisti delle operazioni, veniva dato più risalto alla Croce Rossa. È un gioco delle parti che è stato stabilito a Palazzo Chigi. In azione gli uomini delle forze speciali entrano in questa abitazione e immediatamente l'ingresso nell'abitazione dove ci sono gli ostaggi e poi le facce degli ostaggi stupiti. Una trattativa che non è possibile invece per Enzo Baldoni, il giornalista freelance rapito il 20 agosto del 2004 sull'autostrada che collega Baghdad a Najaf e che viene giustiziato 6 giorni dopo. Anche la morte di Enzo Baldoni rimane tuttavia un mistero tutto da chiarire. Di questo avviso, tra gli altri, è proprio il direttore del SISMI, il generale Nicolò Pollari, che lo ha dichiarato pubblicamente nel giugno del 2005. Ma torniamo a Nicola Calipari. A questo punto Calipari e i suoi uomini sanno che in Iraq le cose si stanno facendo molto, molto difficili e che a rischiare non sono solo i soldati della coalizione, ma anche tutti gli occidentali che vivono e lavorano in Iraq, compresi gli operatori umanitari. E il pericolo maggiore è proprio nella capitale irachena, a Baghdad. Il 7 settembre 2004 un comando armato fa irruzione nella sede della ONG Un Ponte Per. Sono sequestrate 2 operatrici italiane, Simona Torretta e Simona Pari, e 2 colleghi iracheni. Il racconto di Simona Torretta e di Fabio Alberti, presidente dell'associazione. Chiunque vive a Baghdad o in Iraq sa che deve confrontarsi in un contesto dove ci sono attentati, rapimenti, quindi una violenza molto dilagante. Noi probabilmente siamo state rapite perché italiane, semplicemente per quello, ma loro non avevano molte informazioni rispetto a chi eravamo, chi fossimo, che cosa facevamo nel paese. Noi eravamo un'organizzazione quindi umanitaria che si trovava lì per lavorare accanto a una popolazione e soprattutto noi ci tenevamo a far presente che eravamo stati sempre contro la guerra e contro l'occupazione militare. Ho conosciuto Nicola subito dopo il sequestro. Era la persona con cui avevo rapporti per scambiare informazioni sul lavoro diverso che facevamo, il nostro, di sensibilizzazione degli ambienti politici iracheni, del governo e di Nicola in particolare, per ricercare un rapporto con il gruppo dei rapitori. L'ultima volta che l'ho visto è qualche giorno prima del rilascio, stava partendo per Baghdad. È martedì 29 settembre, la trattativa è la svolta decisiva. Nicola Calipari concorda con i rapitori che gli ostaggi siano rilasciati alla Croce Rossa. Il ricordo di Simona Torretta e di Maurizio Scelli, all'epoca commissario della Croce Rossa. Mi stanno dicendo togliete il velo, toglietelo. Sono venuti dall'Italia per riceverlo. Mettiamo le prime immagini da Baghdad della liberazione e della consegna delle 2 Simone alla Croce Rossa italiana. Che quel video serviva a dimostrare all'esterno che il rilascio da parte di questi rapitori era avvenuto e quindi loro da quel momento in poi non avevano più responsabilità sulla nostra incolumità, sulle nostre vite. Quell'abbraccio che non dimenticherò mai di Nicola appena arrivato all'aeroporto, e io lo abbracciai e dissi: senza di te tu lo sai che non ci avremmo mai fatta. E lui le prime parole che che mi ha rivolto sono state quelle, appunto: io sono amico di Fabio Alberti, il presidente dell'associazione, presto tornerete a casa, tornerete in Italia dove ci sono le vostre famiglie ad aspettarvi. La notizia ha ormai fatto il giro del mondo. Gioia ed emozione esplodono in tutta Italia, ma soprattutto a Roma e a Rimini, a casa Torretta e a casa Pari. Per Nicola Calipari e la sua squadra, la liberazione delle due Simone è un successo clamoroso. Ma anche questa volta gli agenti del Sisma hanno agito nell'ombra e devono lasciare agli altri la raccolta degli encomi e degli elogi. Per le truppe americane che si trovano in Iraq, intanto, la vita si fa sempre più dura, nonostante l'invio di nuove truppe e il rafforzamento delle misure di sicurezza, gli attentati continuano a fare molte vittime. Mix 24, la storia. Rieccoci a Mix 24 per continuare con il racconto della storia di Nicola Calipari. La messa in salvo delle due Simone è stata per gli agenti del Sisma una grande vittoria, ma nuovi pericoli, nuove sfide si affacciano in quel paese, l'Iraq, dove la vita per i soldati presenti diventa sempre più dura. Il 4 novembre del 2004 il 69esimo reggimento americano arriva in Iraq. L'unità è inviata a Taji per proteggere la base della coalizione dagli attentati. Il 29 novembre, durante queste operazioni di pattuglia, muoiono i primi uomini del reggimento irlandese dai tempi della Seconda Guerra Mondiale. 30 gennaio 2005. Finalmente si vota in Iraq. Giuliana Sgrena è l'inviata per il manifesto. Ero andata per seguire le elezioni nel gennaio del 2005. Non ho mai nascosto né di essere contro la guerra e contro l'occupazione. Ho voluto vedere però gli effetti di questa guerra e anche dell'occupazione. Baghdad è una città di 6 milioni di abitanti e dà asilo ad un vasto numero di terroristi attivi sia in centro che in periferia. Gli uomini di Nicola Calipari riuscivano a vivere nelle case in centro, riuscivano a integrarsi con la popolazione del posto, riuscivano ad avere un rapporto molto proficuo e collaborativo con gli abitanti di Baghdad, e questo è sicuramente un risultato dell'atteggiamento e degli insegnamenti di Nicola Calipari. Non sono mai stata né embedded con le truppe, né riuscivo a stare chiusa in un albergo a guardare le agenzie oppure a mandare in giro gli iracheni a raccogliere le informazioni per me. Dal 1 novembre 2004 al 2 febbraio 2005 nella zona di Baghdad si sono verificati in totale 3.100 attacchi. Di questi, 2.350 sono rivolti contro le forze della coalizione. E dopo qualche giorno dalle elezioni mi hanno rapita. Sono le 13.50 di venerdì 4 febbraio. Giuliana Sgrena sta uscendo dal cancello dell'università quando la sua auto viene bloccata da altri due veicoli. Il suo autista riesce a fuggire e dà immediatamente l'allarme. Poco dopo, attraverso internet, arriva un ultimatum di 72 ore al governo italiano perché ritiri le truppe dall'Iraq. Lo firma l'organizzazione della Jihad Islamica. Io penso che non sapessero all'inizio chi ero quando mi hanno rapita. Penso che sapessero che ero una giornalista, che ero italiana, ma non sapessero esattamente chi ero. La Jihad Islamica, Giuliana Sgrena, non è una spia, sarà liberata. Il terrorista Zarqawi, io non c'entro, solidarietà di Ciampi alla famiglia. Vi prego, mettete fine all'occupazione, lo chiedo al governo italiano, lo chiedo al popolo italiano perché faccia pressione sul governo, lo chiedo, Piera, aiutami. Per piacere, fai vedere le foto dei bambini colpiti dalle cluster bomb. Il problema era semplicemente il tempo, bisognava andare in fretta e la nostra preoccupazione era quella di riuscire a portare a casa Giuliana il prima possibile, anche perché ogni giorno ci chiamavamo, mangerà, avrà freddo, come starà? Il 15 febbraio 2005 il 69esimo reggimento viene spostato a Baghdad con l'incarico di pattugliare la Route Irish, la strada che dal centro arriva fino all'aeroporto internazionale e a Camp Victory, quartier generale della coalizione. Route Irish è conosciuta anche come la strada irachena della morte. Il 19 febbraio si svolge a Roma una manifestazione di mobilitazione per Giuliana Sgrena, a cui partecipano quasi 500.000 persone. Dopo un'altra settimana sono arrivate quelle che gli esperti definiscono vere e proprie prove in vita, cioè un orologio, una lettera firmata, autografa di Giuliana con dei particolari che solo lei poteva conoscere. Occorre fare presto perché più passa il tempo e più diminuiscono le possibilità di salvezza per l'ostaggio. Nicola Calipari è riuscito a stabilire subito un contatto con i rapitori e a rendersene conto è la stessa Giuliana Sgrena e poi Gabriele Polo, all'epoca direttore del Manifesto. Loro erano stati in grado in breve tempo di stabilire un contatto con i miei rapitori. Questo dimostra che c'era una conoscenza del terreno buona. Io scandivo le mie giornate attraverso gli appelli alla preghiera e la durata della mia prigionia aspettando qualcosa il venerdì o il sabato. Nicola Calipari, il sabato aveva voluto dirmi che la trattativa era arrivata a un punto decisivo, che entro qualche giorno sarebbe partito e se, come sperava, partiva per chiudere e portare Giuliana in Italia. Ringrazio la resistenza irachena per avermi ben trattata. Domenica 27 febbraio 2005, la liberazione sembra imminente. Lui è partito, ci siamo sentiti telefonicamente ogni giorno fino a giovedì. Giovedì 3 marzo, Nicola mi ha detto, mi manca solo un particolare e poi chiudo. È il 4 marzo 2005, all'aeroporto di Baghdad atterra un aereo del SISMI con a bordo Nicola Calipari e alcuni suoi collaboratori. Così Cesare Ragaglini, presidente della commissione d'inchiesta Italia-USA. Gli americani sapevano benissimo chi era Calipari, sapevano benissimo che era arrivato, sapevano benissimo qual era il motivo per il quale era arrivato. Gli hanno dato tutte le autorizzazioni e i permessi e i badge per poter accedere alla base americana, al porto d'armi, per l'autovettura, gli hanno dato gli alloggi per pernottare durante la notte. Fatto tutte queste operazioni, Calipari con il conducente dell'autovettura e quindi soltanto due persone sono partiti. Aggiungerei anche che le raccomandazioni specifiche che gli stessi americani fanno è di girare senza scorta, con auto anonime, proprio per non attirare l'attenzione. Improvvisamente entrano tutti e due i miei guardiani, uno mi dice complimenti, te ne vai, e mi stringe la mano. Io dico come me ne vado? In quel momento mi è venuto persino paura perché mi avevano detto te ne vai. Mi hanno fatto alcune raccomandazioni, mi hanno detto stai attenta perché se ci ferma una pattuglia irachena o degli americani e ti riconoscono ci sarà uno scontro a fuoco e tutti salteremo per aria. Io avevo nella borsa degli occhiali da sole, loro li hanno imbottiti di cotone perché non vedessi ed è l'unica volta che mi hanno tappato gli occhi, che mi hanno bendato, altrimenti io avevo visto tutto fino a quel momento. Venerdì alla solita ora, che era metà pomeriggio, l'ho chiamato, non rispondeva, aveva il cellulare staccato e lì ho capito che stava succedendo qualcosa. Ad accompagnare Nicola Calipari è l'agente Andrea Carpani, funzionario del SISMI con il grado di maggiore dei carabinieri, che opera da 2 anni nella capitale irachena. Ancora Cesare Ragaglini. E li hanno portati fuori Baghdad facendogli fare moltissimi giri nei vicoli più impensati della periferia di Baghdad. Loro sono scesi e mi hanno detto adesso aspetta che ti verranno a prendere. Tra l'altro avevo un elicottero americano che volava sopra di noi, sopra di me, e che andava, girava e continuava a tornare sempre. E io dicevo speriamo che i miei liberatori arrivano nel momento in cui l'elicottero si sta allontanando, perché altrimenti forse scenderà e ci colpirà. E a quel punto ho sentito una voce e mi diceva sono Nicola, non temere, sono Nicola, sono amico di Gabriele, di Pierre, sono venuta a prenderti, adesso sei libera, non temere, adesso vengo a prenderti, ti portiamo su un'altra macchina e ce ne andremo via. E devo dire che improvvisamente quella voce così, così calorosa, così rassicurante mi ha fatto passare tutte le paure che avevo fino a un attimo prima. Sono le 18.30 di venerdì 4 marzo del 2005. In questo momento, in un punto imprecisato di Baghdad, dopo un mese esatto di prigionia, Giuliana Sgrena è finalmente libera. Per il maggiore del SISMI al volante della macchina presa a noleggio e Nicola Calipari seduto dietro alla destra di Giuliana Sgrena, la tensione sembra ormai alle spalle. Adesso si tratta solo di arrivare all'aeroporto e imbarcarsi per l'Italia. Lui mi ha detto guarda io mi siedo dietro vicino a te così tu ti senti più sicura e ha cominciato a parlarmi anche di persone comuni, persone, amici comuni. I liberatori ce l'hanno fatta ma si trovano in un punto sconosciuto di Baghdad. Persino Andrea Carpani non è mai stato in quella zona. Così continua Cesare Ragaglini. Lui però riesce ad orientarsi sulla torre di Saddam, che è un edificio altissimo dove c'è anche un ristorante girevole e quindi si vede anche da molto lontano. Seguendo l'indicazione della torre rientra verso Baghdad fino a che non incrocia la Route Vernon, che lui sa che porta alla congiunzione con la Route Irish, che poi conduce all'aeroporto. Quindi da quel momento la decisione è presto presa, perché dal momento in cui sono sulla Route Vernon ci sono un quarto d'ora, massimo 20 minuti per arrivare all'aeroporto. Sarebbe stato veramente sconsiderato tornare verso Baghdad, magari per andare in ambasciata. L'accusa che è stata fatta a Calipari di non avermi portato all'ambasciata quella sera perché era tardi è semplicemente assurda e folle di chi non conosce assolutamente Baghdad e non sa neanche dove è la nostra ambasciata, perché la nostra ambasciata è uno dei posti più pericolosi attualmente a Baghdad. Piove a Baghdad, una pioggia fredda con nuvole basse e foschie che sconsiglia addirittura l'uso degli elicotteri. John Negroponte, ambasciatore americano in Iraq, la sera è invitato a Camp Victory e lo spostamento è organizzato in automobile. È per questo che la compagnia A del 69esimo reggimento, comandata dal capitano Michael Drew, è incaricata di pattugliare la Route Irish e di istituire blocchi ai checkpoint. Gli era stato ordinato di farlo secondo un certo tipo di modalità. Questo tipo di modalità si chiama Rhino Bus, che prevede il blocco di queste strade soltanto per pochi minuti, 10-15 minuti, a volte 20, ma proprio al massimo. Questo posto di blocco è rimasto in piedi un'ora e 20, un'ora e mezza. Il capitano Drew chiede insistentemente di smobilitare il blocco, ma quella sera ci sono problemi di comunicazione. Il convoglio di Negroponte è già passato, ma da Camp Victory ordinano di aspettare altri 20 minuti. Il checkpoint 541 non deve smobilitare. Poco a poco riacquistavo questo senso di libertà. Cominciavo a realizzare che effettivamente ero libera. E io che amo molto Baghdad, che ogni volta che partivo da Baghdad lasciavo qualcosa da fare, e invece quella volta vedevo Baghdad che si allontanava e provavo un sollievo. C'è stato un esplodio di gioia immensa da parte di tutti. Dopo pochi minuti è arrivata una telefonata di conferma di Costanza Zira direttamente da Gianni Letta, dicendo è libera, sta viaggiando verso l'aeroporto. Il conducente era in contatto col suo collega, che è il capocentro di Baghdad Sismi, che era all'ingresso della base militare, insieme al vicecomandante del corpo multinazionale, che era un generale italiano, e al suo assistente americano. Tra di noi c'era tensione, di cui non ci saremmo liberati finché saremmo arrivati all'aeroporto, saliti sull'aereo per partire. Fino a che sono arrivati all'ingresso della rampa, che porta poi dalla Route Vernon a quella Irish, andando a velocità moderata. Ma a 700 metri dalla meta qualcosa va storto. Mix 24, la storia. Bentornati su Mix 24. Nicola Calipari, Giuliana Sgrena e Andrea Carpani sono in viaggio verso l'aeroporto di Baghdad. A pochissime centinaia di metri dall'arrivo qualcosa non va come previsto. Mancano 700 metri, poi ci siamo. Lui aveva appena detto così quando ci ha colpito la prima raffica. Ci stanno sparando addosso. Io dicevo, ma chi ci sta sparando addosso? Gli spari arrivavano dalla sua parte, cioè da destra, e lui mi ha spinta giù. Io, per fortuna sono piccola, mi sono incastrata tra il sedile davanti e il sedile dietro dove ero seduta, e lui si è buttato sopra di me, evidentemente per proteggermi, e a un certo punto c'era l'autista davanti che continuava a urlare siamo italiani, siamo dell'ambasciata italiana, così per cercare di farsi sentire, di fermare chi sparava. E Nicola, che prima parlava, mi raccontava un sacco di cose, a quel punto non ha parlato più. Io non avevo il coraggio di chiamarlo, per chiedergli cosa succedeva, ero paralizzata, non riuscivo più a parlare. Uno urlava, l'altro, io ero paralizzata e Nicola taceva. e a quel punto ho cominciato a sentire come se il suo corpo si appesantisse su di me e non avevo il coraggio di affrontare l'idea che lui potesse essere ferito, grave, morto, che non potesse più parlare. E avevo una sensazione stranissima, non capivo se io ero morta e lui era vivo ma non potevo più mettermi in relazione con lui o se lui era morto e io ero viva. Nicola Calipari muore alle 20:50 del 4 marzo del 2005 sulla rampa della Route Vernon. A ucciderlo è il fuoco amico di una pattuglia americana. Nell'inchiesta congiunta condotta da Italia e Stati Uniti, i militari americani hanno dichiarato che l'auto di Calipari, nonostante i ripetuti avvertimenti, non si è fermata e che anzi viaggiava a forte velocità. Ma l'autista della macchina e la stessa Giuliana Sgrena hanno dato un'altra ricostruzione completamente diversa del fatto. E allora è stato solo un tragico incidente, come dicono gli americani, oppure si poteva fare qualcosa per evitarlo? E se sì, di chi è la colpa? Ma intanto, che cos'è e come funziona un checkpoint americano a Baghdad? I cavalcavia come il checkpoint 541 sono particolarmente esposti ad attacchi. Offrono infatti ottima visibilità in tutte le direzioni, facili vie di fuga e la possibilità di accedere ad alta velocità alla Route Irish. Tra il 1 novembre del 2004 e l'inizio di marzo del 2005, il checkpoint 541 è stato colpito da 13 attacchi. Di quelli sferrati nelle ore notturne, la maggior parte sono concentrati tra le 20 e le 21:30, il momento di massimo pericolo. Il 4 marzo il compito per la pattuglia è di evitare che qualsiasi veicolo si immetta sulla Route Irish in concomitanza con il passaggio del corteo di Negroponte. La pattuglia è composta da 2 veicoli e 7 uomini. A comandarla è il luogotenente Nicolas Acosta. I 2 mezzi ampi vengono così disposti. Il primo, quello di blocco, all'altezza della seconda delle 3 barriere di cemento presenti sulla rampa, ha il muso rivolto verso la Route Irish. L'altro, quello di copertura, si posiziona all'altezza della 3ª barriera Jersey, sempre rivolto verso la Route Irish. Così Cesare Ragaglini. Non tutti i soldati erano consapevoli di dove i 2 veicoli militari erano stati posizionati. Acosta stabilisce anche che la posizione della linea di allerta coincide con la spalletta di separazione tra la rampa e il cavalcavia, mentre la linea di avvertimento coincide con il secondo palo della luce posto sopra il cavalcavia. Linea di allerta, linea di avvertimento. Ecco, a questo punto dobbiamo capire un altro dato. Quali sono le procedure da seguire e le regole di ingaggio da rispettare ai checkpoint? Un checkpoint deve essere caratterizzato quindi dai seguenti elementi. Segnaletica in lingua locale, in inglese, in corrispondenza della linea di allerta a una distanza di 200-400 metri dalla linea di stop. Con i riflettenti con funzione di restringimento carreggiata ad una sola corsia, in corrispondenza della linea di avvertimento, segnaletica che impone di arrestare il veicolo a 100 metri dalla linea di arresto. Linea di arresto davanti a ostacoli di difficile superamento come i cavalli di Frisia. Ebbene, il checkpoint 541 è allestito in maniera completamente diversa dalle procedure operative statunitensi, ovvero è un posto di blocco illegale. Cesare Ragaglini. Non c'erano né cartelli che indicavano che vi era un posto di blocco agli automobilisti che giungevano sull'autostrada, non vi erano coni riflettenti, non vi era la concertina a protezione degli automezzi militari. La mancanza di qualunque segnale rende impossibile per le vetture di rendersi conto del posto di blocco che si trova dopo una rampa in salita e dietro una curva. Praticamente per una macchina in arrivo il posto di blocco è indistinguibile. È soltanto un faro utilizzato manualmente dal mitragliere, cioè lo stesso che poi era chiamato a sparare. Il mitragliere del posto di blocco è Mario Lozzano, newyorkese, ispanico del Bronx, 35 anni, divorziato, 2 figlie. Nella vita civile ripara condizionatori.